Roma. Buonasera. Ciao. Eccoci, qui siamo. Guarda, che devo dire? Buonasera ragazzi, siamo qui da. Buonasera a tutti, sono Carmelo Di Grazia. Mi chiamo Valentina Valenti. Sono Vincenzo Palmieri. Io sono Mira Sonia. Allora, io sono Giustino. Sì. Stefano. Ciao, io sono Valeria. Faccio calcio. Il Don Orion. Sì. La squadra è Arcesi. Il piacere mi fa. Studio meccanico, gioco con gli amici a pallone. Faccio la casalinga. Frequento l'Arci Ragazzi di Borgonovo. Abito a Borgonovo. Presento a Roberto Valeria che canterà la canzone. Io ti dirò le cose dette mai. Di questo amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Sembra cominciata già una storia senza fine. Dopo tanto l'ha fatto sentire come sta. Una barzelletta. C'era una volta Pinocchio che stava aiutando a salire le scale con sua zia, che aveva fatto la spesa. E sua zia gli dice a Pinocchio: Pinocchio, mi aiuta a salire la spesa sopra? E Pinocchio dice: sì, sì, zia, va bene. Allora, mentre stavano salendo le scale, la zia inciampa e cade. E Pinocchio finisce col naso mezzo alle gambe della zia. La zia lo guarda e dice: Pinocchio, dici una bugia. Saluto a Danilo. Vado. Ok, adesso io vi saluto. Saluto a tutte. Saluto a tutti i ragazzi. Saluto a tutti e a quelli dell'Arci Ragazzi. Sette volte faccio disperare a tutti, soprattutto a Nando. Spero che le mie canzoni vi sono piaciute. E adesso ciao. Ciao ciao ciao ciao ciao.